Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, settimana che sarà molto molto densa, visto che si concluderà il 28 e il 29 con il Consiglio, con il Vertice Europeo, quello da cui tutti si attendono che arrivino risposte un po' più significative rispetto a quelle che si sono appena viste. Parlo delle nuove dichiarazioni di Angela Merkel oggi, che ha detto in sostanza la strada di un debito europeo non è una strada, né Eurobond né Eurobill, insomma non è in questo modo che risolveremo il problema, le riforme strutturali le devono fare i paesi in difficoltà, non è la Germania che può, non è Berlino che può risolvere i problemi. Sulla crisi in senso stretto, anche il portavoce del ministro tedesco Wolfgang Schäuble a Berlino ha detto: attenzione, con il governo di Mario Monti l'Italia può risolvere bene i suoi problemi. Arriva un elogio oggi a Mario Monti anche dal Financial Times, che dice: è il momento di Mario Monti, il premier italiano infatti può salvare l'euro, deve solo parlare chiaro ai poteri forti. L'unica speranza, continua il Financial Times, di salvare l'euro è che uno dall'interno sfidi la Merkel, sfidi Angela Merkel, e nessuno è posizionato meglio del premier italiano per confrontarsi con Angela Merkel. Lui è l'ultimo insider europeo, è intelligente ed eloquente, il suo paese è il prossimo in attesa di essere attaccato dai mercati e l'Europa non ha un piano B, un piano di riserva. E ancora su questo, le borse oggi stanno andando molto male, devo dire Milano e Madrid le peggiori. Ci pesa la dichiarazione di Moody's, che si appresta a declassare le banche spagnole, da quello che abbiamo letto, le agenzie riportano questo. Pesano anche le ipotesi che possa poi toccare all'Italia, inutile girarci attorno. E in tutto questo vediamo Wall Street non ha dato una mano, nel senso che perde per altri motivi l'1,20%. Detto ciò, meno 2,16 Parigi, meno 1,80 Francoforte, meno 1,20 Londra, meno 4% quasi Milano. Dopo parzialissimi recuperi la settimana scorsa, adesso di nuovo è profondo rosso per tutti i gruppi bancari. Vi do rapidamente l'andamento in questo momento, ma non c'è di che rallegrarsi da nessuna parte. Popolare di Milano meno 8,60% a 34 centesimi di euro per azione. Unicredit meno 7,70 a 2,47 euro. Monte dei Paschi meno 6,90 a 20 centesimi di euro. Mediobanca anch'essa perde il 6,90% a 3,1 euro per azione. Banco Popolare perde il 6,80 a 94 centesimi di euro. Intesa San Paolo perde il 6,30 a 97 centesimi di euro. E via così. Non si salva nulla, nemmeno gli industriali. Fiat perde il 3,91, Finmeccanica il 5,80, Buzzi Unicem il 5,80 anch'essa. Si salva solo Diassori in più 1,1. E poi perde poco Azimut e Campari perdono mezzo punto, Snam l'1,40%. Non è solo la borsa, purtroppo è un copione già visto, anche gli spread sono tornati a crescere, quindi la differenza tra quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania. Germania però, da cui arrivano, al di là delle posizioni di Angela Merkel, arrivano anche indicazioni di una maggiore preoccupazione. Ne parlavamo la settimana scorsa, sono usciti due indici, anzi tre alla fine, ZEV, IFO e l'indice sulle piccole e medie imprese, che stanno a denotare un rallentamento dell'attività economica in Germania. E poco fa è arrivata una notizia che riguarda il debito tedesco. Per la prima volta anche il debito pubblico della Germania, nonostante tutta la congiuntura tedesca vada molto bene, è arrivato al record storico di 2.000 miliardi di euro. Per la prima volta ha superato i 2.000 miliardi, 2.042. È aumentato il debito tedesco del 2,1% nei primi tre mesi dell'anno. Lo dico perché sapete che riteniamo che l'unica possibilità per arrivare a un accordo complessivo, è che anche la Germania veda una convenienza in una banca centrale europea che garantisce per le banche europee, che può stampare moneta, che mette un muro alla speculazione. Chi sono i poteri forti, chiedete, quelli a cui fa riferimento il Financial Times? E immagino si riferisse ai paesi forti, visto che poi riferimento alla Merkel, non a fantomatici poteri forti che in questo momento sì, gli investimenti arrivano dappertutto, ma l'Europa, ripeto, sta offrendo le migliori possibilità a tutta la speculazione per muoversi in questo senso. Ancora, per quello che riguarda l'andamento delle trattative in corso per arrivare a qualcosa il 28-29 giugno, dalla Germania, stavo dicendo, arrivano segnali di maggiore preoccupazione. Il dato sul debito di oggi è l'ultimo, sul rallentamento dell'attività economica. Forse da lì potrà arrivare una maggior consapevolezza che se frena bruscamente e brutalmente tutto il resto d'Europa, frena anche la Germania. Di questo parleremo anche delle dichiarazioni del ministro Passera, delle dichiarazioni della segretaria della CGIL Camusso sulla spending review, sulla revisione della spesa pubblica, e anche delle dichiarazioni del presidente di Confindustria Squinzi sulla riforma del mercato del lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms, meno 4% in questo momento Milano. Vabbè, noi andiamo avanti con il nostro programma. Oro poco mosso a 1572 dollari l'oncia, petrolio a 78 dollari al barile a New York. In America arriva un buon dato, ma la borsa lo guarda poco, sulle case nuove. La vendita di nuove case negli Stati Uniti ha raggiunto i massimi da due anni, più 7,6%. Dicevo invece, tornando all'Europa, lo spread italiano risale a 450 punti e il rendimento del nostro BTP a 10 anni va al 5,96%. La Spagna rispetto alla Germania a 507 punti. Allora c'è chi, insultando anche pesantemente, vabbè, continua con questa litania del visto che la colpa non era di Berlusconi. A me non interessa sapere se la colpa fosse o no di Berlusconi. Faccio solo notare che finché c'era il governo Berlusconi Tremonti, perché la crisi era tra i due, lo spread italiano, oltre che viaggiare anche sopra i 500 punti, era 30, 40, 50 punti sopra quello spagnolo. Adesso, perlomeno, siamo 55 punti sotto. Dopodiché è ovvio che sono intervenute anche altre variabili e che uno spread a questi livelli non è accettabile. Berlusconi, Monti o chi per esso governi il paese, cioè a 450 punti non si riesce a mantenere una politica virtuosa nell'indebitamento, non ce la fai sostanzialmente. E Angela Merkel ha fatto anche un po' la vittima, dice: anche giovedì a Bruxelles tutti gli occhi saranno sulla Germania, tutti gli occhi su Berlino, ma sono gli altri paesi che devono fare le riforme strutturali. È giustissimo, noi dobbiamo continuare a fare i compiti a casa. Faccio solo notare modestamente al cancelliere Angela Merkel che le riforme strutturali che noi dobbiamo fare, continuare a fare, necessitano di anni per rispettare i loro effetti, cioè vanno fatte, ma non è che domani poi ripartano le cose. In questo momento la speculazione che sta attaccando prima appunto Grecia, poi Irlanda, poi Portogallo, la Spagna, e adesso si prepara ad attaccare il pesce più grosso che è l'Italia, non aspetterà mesi di riforme strutturali o anni di riforme strutturali, vuole garanzie sulle banche europee. Le uniche garanzie sulle banche europee le può dare la Banca Centrale Europea se garantisce per tutte le banche, ma occorre il sì dei tedeschi. E per quello che riguarda invece l'Italia, dicevamo della spending review, ossia del tentativo che sta facendo il ministro Giada, ma soprattutto il commissario Bondi, di tagliare di almeno 4 miliardi la spesa pubblica. Con quello che spendiamo, quasi 800 miliardi, di cui 120 di spesa per acquisto di beni e servizi, 4 miliardi sono veramente pochino pochino, ma almeno arrivassero questi 4 miliardi di taglio. Allora, la CGIL giudica inaccettabili nuovi interventi sul pubblico impiego e sulla sanità, come ipotizzato dalla spending review. Tagli lineari alla sanità sarebbero insopportabili, già ora non ce la si fa a garantire le prestazioni essenziali, e sul lavoro pubblico già molte manovre sono intervenute. Allora, segretario Camusso, va bene sulla sanità, ma sul lavoro pubblico, ma siamo così sicuri? Intanto che il compito del sindacato sia sempre di difendere il pubblico impiego, non l'avevo capita così io inizialmente, quando studiavo cosa faceva il sindacato, e poi siamo così sicuri che noi spendiamo circa il 50% del PIL, no, di spesa pubblica, 790 miliardi di euro, lasciando stare le pensioni che sono 317 miliardi, i servizi generali, cioè gli acquisti di beni 132 miliardi. Beh, siamo così sicuri che non ci sia niente da risparmiare lì? Cioè, al netto degli interessi sul debito, negli ultimi 10 anni la spesa pubblica italiana è salita del 5%, ma quella per gli acquisti di beni e servizi del 35%. Allora, non so, oppure diciamo che il pubblico impiego ha sempre ragione, sempre vittima, vabbè. Comunque, intanto il ministro Passera ha parlato di crescita, ha detto la crescita resta una priorità, ma abbiamo meno di un anno, ricordando però che poi la crescita non si ha per decreto, parte dalle imprese. Ascoltiamolo oggi durante il suo intervento all'Assemblea Annuale di Federchimica qui a Milano. È chiaro che la crescita la fanno le imprese e noi abbiamo il dovere di essere al servizio di tutto ciò che rende più fattibile il lavoro delle imprese, perché oggi la crescita, la creazione di posti di lavoro è ovviamente la priorità numero uno. Sento fino in fondo la responsabilità di guidare due ministeri che molte risposte devono dare e molta solidarietà, ma molto impegno diretto devono dare al mondo delle imprese. Diamoci un tempo più breve dell'anno, perché non ce l'abbiamo a disposizione per misurarci e rivederci. Questo è uno di quei settori per cui l'Italia può essere ottimista e per cui noi ci sentiamo di fare un lavoro che serve. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Si torna alla nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Oggi però non ci occupiamo degli sprechi. Continueremo a farle, ci mancherebbe, o solo degli sprechi della nostra pubblica amministrazione, intesa come comuni, province, regioni, ma dei greci. Allora, abbiamo detto in tutti i modi possibili che umiliare i greci non ha avuto nessun senso, che la Grecia andava salvata e poi commissariata, perché chiaramente non erano in grado di gestirsi, avevano truccato i conti, ma non aveva senso umiliare e scatenare questo effetto domino grazie alla Germania, per cui dopo la Grecia tocca l'Irlanda, il Portogallo e poi a chi toccherà, e così la speculazione sta a praterie su cui muoversi. Detto questo, però, è proprio perché abbiamo detto che non aveva senso umiliare i greci, ma punirli sì, ma non umiliarli. Io non so come poi, dove vogliono arrivare. La Grecia ha violato un accordo con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, assumendo circa 70.000 funzionari nel 2010-2011, risulta da alcuni rapporti, uno interno alla missione permanente della Troica e un altro voluto dal ministro delle finanze ad interim Georg Zannias, pubblicati dal settimanale greco Tovimas. Mentre il governo varava la legge per ridurre il numero dei funzionari, li faceva rientrare dalla finestra. Ora, ricordo che tra il 2010 e il 2011 la Grecia si era impegnata, quando ci fu il primo salvataggio, a sostituire un funzionario su 5. Nonostante nel 2010 sono andati in pensione 53.000 funzionari e altri 40.000 nel 2011, quindi 93.000 in tutto, la riduzione è stata di appena 24.000 unità e non ci siamo, perché chiaramente i numeri non tornano. Se poi si scopre che ne assumi 70.000, io non so, facciamo un applauso ai greci? Continuate così, cosa dobbiamo fare poi? Vai. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E adesso invece forse una buona notizia e un applauso vero, non ironico, al governo, se ce la farà. Il colpo di spugna sulle province, su Sole 24 Ore lo trovate come inchiesta. Potrebbe arrivare per decreto, 42 province sulle 86 delle regioni a statuto ordinario verrebbero soppresse per la mancanza di due dei tre criteri fissati dai tecnici del governo, ossia almeno 350.000 abitanti, minimo 3.000 km quadrati di estensione, minimo 50 comuni sul territorio. In Toscana resterebbe solo la provincia di Firenze, in Lombardia verrebbero cancellate Lecco e Lodi, nelle Marche fermo potrebbe saltare. con tra l'altro a Fermo, lì volevano la provincia, ne hanno praticamente accorpate due, ma con 175.000 abitanti, 40 comuni, 860 km quadrati, Fermo non rispetta neanche uno dei tre parametri, quindi anche Ascoli Piceno. Insomma, fatto sta che all'epoca dell'Unità d'Italia le province erano 59, nel 47 erano 91, poi si arriva a 103 province nel 92, nel 2004, ricordo, visto che si parlava di Berlusconi, fu la maggioranza che vinse le elezioni con Berlusconi, promettendo di abolire le province, il risultato fu che ne mettemmo altre 5, cioè arrivarono a 109 province. Quanto costano? Così la chiudiamo. Dati del Sole 24 Ore, nel 2008 costavano 17 miliardi di euro. Tanti o pochi, direte voi? A me sembrano tanti per le province, però soprattutto i costi delle province sono aumentati dal 2000 del 70%. Gli effetti per i cittadini non si sono visti, forse per gli amministratori sì. Un applauso al governo Monti. Fate questo decreto, tagliate le province, ce ne faremo una ragione se non avremo più la provincia di Fermo, Lodi e le altre province toscane, venete, del sud, non me ne frega nulla, tagliate le province. Un applauso di incoraggiamento e poi andiamo col primo tema. Europa sotto pressione, ormai non fa quasi più notizia. Comunque la borsa si avvia a chiudere con un meno 4%, meno 2 Parigi, meno 1,80 Francoforte. Spread che risale a 450 punti, lo spread con tra Spagna, tra Madrid e Berlino a 509 punti. Praticamente insomma, un insieme di elementi hanno influito. È vero che qualche recupero c'era stato la settimana scorsa, ma le parole di Angela Merkel, che ha detto no a tutto, no a un bill europeo, no a degli eurobond, no a un debito di carattere europeo. Eurobond e eurobill e simili sono un errore. Garanzie di condivisione, oltre che non compatibili con la nostra Costituzione, sarebbero controproducenti dal punto di vista economico. E però ci deve essere anche dell'altro, perché l'avvitamento è stato fortissimo soprattutto nelle ultime 2-3 ore, addirittura sospesa BPM e poi Mediobanca per eccesso di volatilità. Alla fine la chiusura, visto che siamo a 2 minuti dalla chiusura, per BPM è meno 8,60%. Per Unicredit meno 8,5%. La Spagna oggi ha chiesto ufficialmente l'aiuto dell'Unione Europea, era un passaggio formale. I mutui cancellati in Spagna superano quelli concessi, cioè il numero di mutui ipotecari cancellati ha superato per la prima volta il numero di quelli aperti. Le ipoteche concesse sono state 26.400, quelle cancellate 26.700. E ci si attende che alle 23 l'agenzia di rating, quella che dà i voti ai debiti di stati e di privati, Moody's, declassi praticamente tutte le banche spagnole. Dottor Mario Sprafico, buonasera. Buonasera. Direttore investimenti di Schroders Italia. Dove li ha messi i soldi lei oggi? Purtroppo oggi non c'erano soldi da mettere, che purtroppo era ancora un mercato classico di ormai un copione che si ripete dopo i meeting ufficiali dei leader europei, che non portano poi a nulla, meglio questa è stata l'esperienza storica degli ultimi mesi, e quindi è chiaro che siamo stati fermi. No, ma al di là di questo, cioè, però io vorrei capire, insomma, la settimana scorsa qualche acquisto c'era stato, qualche recupero sui titoli. Io mi sono perso qualcosa nel fine settimana, perché non ho trovato, al di là delle dichiarazioni di Angela Merkel oggi, che non nemmeno quelle sono una grande novità, elementi tali da buttare giù del 4% Milano, Madrid, del 2% Parigi, no? Però mi dica, mi sono perso qualcosa, no, forse. Però c'è una similitudine, ad esempio anche lunedì della scorsa settimana, dopo il G20 avevamo aperto con un mercato molto difficile, l'Italia aveva perso quasi 3 punti percentuali, poi li ha recuperati nel corso della settimana, ma effettivamente la settimana scorsa eravamo reduci dal meeting del G20 e questo fine settimana, pur non avvenuto settimana scorsa, ma reduci del meeting a 4 avvenuto a Roma tra le 4 economie più importanti dell'euro, quindi diciamo è un mercato che vive molto sulle attese, si pensava e ci si aspettava molto da questo meeting a Roma di settimana scorsa, non c'è stato un risultato soddisfacente ed è stato anche abbastanza evidente e quindi si è ritornati sul tema della difficoltà di percepire quali possono essere le situazioni, soprattutto le soluzioni. Mi dica una cosa, però visto che voi come Schroeder avete un profilo e anche un orizzonte internazionale, ma adesso si stanno spostando sul prossimo big fish, cioè l'Italia? Ma no, questo è un po' una diversità in tutto questo, ci sono una serie di attori che sono fondi speculativi che probabilmente stanno cercando di far girare questo virus, ma sono ancora quelle realtà che vivono questo mercato con lo stereotipo Italia-Spagna. Quindi se succede qualcosa alla Spagna probabilmente anche in Italia può succedere, ma si tratta di una probabilità, c'è qualcuno che però anticipa questo tipo di comportamento perché non riesce a intuire quali possono essere gli atteggiamenti di questi fondi speculativi. Ma mi scusi Prefico, siccome la speculazione, gli speculatori saranno anche cattivi ma non sono mica stupidi, diciamo spesso come battuta sono come gli avvoltoi, l'avvoltoio gira sopra dove vede una carcassa o un morto o una carcassa o un animale morente, non gira sopra un leone vivo, non si è mai visto, non sarebbe un avvoltoio, sarebbe un mone basta, una roba del genere. Allora, qui tu vai a vendere titoli e li fai perdere 7-8%, titoli già molto bassi, non perché così vuoi giocare, perché ritieni che ci sia un margine, cioè è anche un rischio andare a vendere titoli come Intesa San Paolo che adesso quota 96 centesimi di euro o Unicredit che quota 2,46 euro, continuare a vendere, no, chiedo. Assolutamente è vero, infatti purtroppo i mercati finanziari molto spesso non sono intelligenti, cioè purtroppo a volte hanno dei deficit anche di percezione perché si muovono molto sull'emotività e non sulla ragione. Purtroppo esiste una parte del mondo e quindi una parte di operatori che vedono questo tipo di comparto, soprattutto il comparto bancario in Italia, molto sensibile anche perché è un comparto molto liquido, le nostre banche maggiori sono molto liquide e quindi si prestano facilmente a incursioni speculative. Ora, è anche vero che però non riescono a dimostrare il contrario, non si riesce a dimostrare che la solidità delle nostre banche è fuori discussione e quindi non si riesce a entrare e purtroppo a rompere questo stereotipo che se deve succedere qualcosa in Spagna e quindi le banche spagnole chiedono aiuto, le banche italiane non c'entrano nulla. Sì, c'è anche un'altra possibilità però, Sprefico, magari la risposta me la dà dopo il meteo e la pubblicità, e cioè che queste siano delle pressioni che tutto sommato se dovessi ragionare in maniera cinica potrei anche dire, vabbè, meglio le pressioni che non l'euforia, in vista del vertice del 28 e del 29. E cioè il segnale che può arrivare è che paradossalmente a noi farebbe anche comodo, non, tanto se uno non vende in questo momento non porta a casa, perché arrivare al 28 e 29 con una borsa estremamente in fibrillazione, con gli spread che sono schizzati, con le banche che vanno a livelli, diciamo, da minimi storici, potrebbe far aumentare la tensione, il senso di urgenza per fare qualcosa al 28 e 29. Se mi dà una risposta dopo il meteo, sì, ma ho capito che è d'accordo, ma vorrei che me l'articolasse. Sono contento. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo e pubblicità. ...17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, dottor Sprefico, non ci può essere anche un ragionamento per mettere pressione? Oppure sto facendo troppo intelligenti e troppo così organizzati flussi di, in questo caso, vendite che si muovono in maniera più eterogenea e anche senza parlarsi in qualche modo? No, sicuramente c'è una direzione nel voler mettere pressione, perché la sfiducia in sé corrisponde poi a questi effetti sul mercato e quindi obiettivamente tra l'altro parlando proprio dell'Italia, l'Italia si presta anche come struttura del mercato a essere un po' anche l'agnello da sacrificare in questa situazione, avendo il mercato di titoli di Stato tra i più liquidi al mondo, banche quotate, mercato piccolo ma banche quotate molto liquide, quindi c'è una dimensione del nostro mercato, una struttura che si presta ad essere anche un veicolo per dover essere in questo momento strumentalizzato, e quindi è anche verosimile che questo tipo di sfiducia porti a un messaggio molto chiaro di dover far presto. Questo fate presto, come il titolo famoso del Sole 24 Ore rivolto al governo allora, e poi rifatto due settimane fa, Chanel, Frau Merkel, faccia presto signora Merkel. Un'ultima domanda, dottor Sprefico. Lei mi ha detto che i soldi non li ha investiti in questo momento, ma dove li ha investiti? Cioè, che cosa state facendo voi? Perché è chiaro che a noi arrivano decine di segnalazioni, ma tutte da verificare, che ci stia preparando dappertutto al piano B, al piano, diciamo, di un'eventuale non tenuta dell'euro. Voi ragionate su questo piano? E se sì, dove state mettendo i soldi? In dollari australiani e canadesi? Allora, noi, come tutte le realtà internazionali, abbiamo fatto quello che si chiama in gergo il cosiddetto contingency plan, cioè quindi una simulazione nel caso di estrema ratio. Però è anche chiaro che noi crediamo, e per questo abbiamo anche investito sul mercato italiano, crediamo che certe situazioni, soprattutto certi parametri in questo momento, siano completamente irrazionali dei mercati. Quindi continuiamo a rimanere investiti soprattutto nel mercato dei titoli di Stato europeo, chiaramente nei mercati principali, dove noi non crediamo in una rottura dell'euro, e diversifichiamo anche il portafoglio sulla base di quelli che sono anche paesi che sono al di fuori dell'area euro, ma per una misura molto contenuta, diciamo nella media di quella che è stato l'ultimo la media degli ultimi anni. Quindi non crediamo anche che queste situazioni siano anche delle opportunità di acquisto, perché la percezione è che l'euro è un processo irreversibile, pur nonostante quello che viene fatto apparire in questo momento da questa dialettica politica e da questo atteggiamento della Germania. E quindi continuate grande parte a investire su titoli di Stato europei, area euro o anche fuori dall'euro ma in Europa, sì? Assolutamente sì, anche in Italia. Perché ritiene che alla fine tutto si risolverà? Io credo e crediamo che si risolverà, ci vorrà il tempo. E questo chiaramente purtroppo è il consiglio che date anche ai vostri clienti, no? Esattamente. Cioè non gli dite di comprare dollari australiani, canadesi? No, assolutamente, noi crediamo che i portafogli devono essere diversificati, ma questo sempre. Ma non crediamo di dover in questo momento seguire gli istinti e delle percezioni che arrivano da quello che si racconta con casi estremi dalle cassanze. Ma lei pensa che il 28-29 giugno arriverà una risposta un po' più chiara, un po' più, diciamo, da firewall, da barriera antincendio nei confronti della speculazione, oppure ci stiamo illudendo anche stavolta? Ma credo che le probabilità saranno molto ridotte di avere, visto i pregressi e soprattutto l'esperienza precedente, qualcosa di attendibile. Però crediamo che in linea di massima probabilmente verranno messi dei passi e verranno prese delle intraprese, soprattutto degli annunci che potrebbero portare a una stabilizzazione del mercato da qui ai prossimi mesi. Con gli annunci dubito, comunque la speranza è l'ultima a morire, qua bisogna prendere decisioni, non annunci. E ricordo che la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto l'euro ha 3 mesi per, diciamo, togliersi, per sapere se resterà in vita, per cui l'ha detto quasi un mese fa. Siamo a 2 mesi e qualcosa. Grazie al direttore investimenti di Schroders Italia, Mario Sprefico. Adesso restiamo sulla borsa, anche se, diciamo, lo scenario generale l'abbiamo già dato, ma andiamo a commentare i singoli titoli. 349-238-6666 per i vostri sms a borsa. Sì, alcuni di voi scrivono, ma il suo ospite neanche sotto tortura le direbbe che stanno scappando dall'euro. Ma non so, io le domande le faccio, poi sulla buona fede ce l'ho sempre. A giudicare dai flussi di capitale oggi, la fuga sull'area debole dell'euro c'è stata, ma anche sull'area forte. La borsa di Francoforte ha perso il 2,1%, Parigi ha perso il 2,20%, Milano certo il 4%, con un tonfo vero e proprio per Unicredit meno 8,40 come la Popolare di Milano, il 7% l'ha perso Monte dei Paschi, ma anche il Banco Popolare, il 6,5% Intesa San Paolo, il 6,40% Mediobanca, restando sui bancari UbiBanca meno 5,60%, Popolare Emilia Romagna meno 4,80%, e qui mi fermo. Sugli industriali invece segnalo A2A meno 7%, Buzzi Unice meno 6,20, Finmeccanica meno 5,80, Media 7 meno 5,23, Fiat meno 4%, ST Microelectronics meno 4%, Telecom meno 3,80%, Prismian, ex Pirelli Cavi meno 3,80%, Impregilo meno 3,60%, Atlantia meno 3,5%, Fiat Industrial meno 3,5%. Mi fermo col 3%, dai, meno 3,40% Enel e Dexor, meno 3,15% Pirelli e Parmalat, meno 3% Enel Green Power e anche Saipem. Guadagna di Assori in più nel 27%, Azimut è invariata, Campari e Snamret e Gas perdono solo l'1%. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Poi, insomma, sulle banche, devo dire che anche nel resto d'Europa mi sembra di averle viste belle penalizzate oggi. Assolutamente, l'indice europeo ha perso il 3% complessivo, tutti i titoli del settore del credito sono stati fortemente penalizzati, certo noi in maniera particolare, diciamo peggio di noi hanno fatto solo le banche di Atene, che nell'indice complessivo, le banche di greche che nell'indice complessivo hanno perso il 14%, la borsa di Atene oggi ha conosciuto una seduta veramente pesante a dir poco, perché ha perso quasi il 7% nell'indice principale e l'8% nell'indice dei 20 titoli a maggiore capitalizzazione. Sì, e poi c'è Madrid, E poi anche Madrid che ha perso complessivamente il 3,6%, quindi ha fatto un po' meglio di noi, ma anche qui il settore bancario molto penalizzato. Insomma, Atene meno 7, Milano meno 4, Madrid meno 3,5, non è... si capisce bene in che direzione stiano andando le vendite. Poi è vero che anche Parigi, appunto, e Francoforte hanno fatto meno 2,20 e meno 2,1, però è meno della metà in alcuni casi. Tra l'altro si vendono le banche di questi paesi perché si sa che le banche europee e spagnole e italiane sono piene di titoli di Stato dei loro paesi. Monte dei Paschi in realtà ha avuto anche altre vicende interne, perché è stata spostata l'approvazione nel Consiglio di Amministrazione del piano industriale, no? Sì, era atteso per oggi, atteso da tempo l'approvazione in CDA del piano industriale, che è stato invece spostato a domani. Ormai sono sempre più fitte le indicazioni che vogliono la possibilità da parte del Monte dei Paschi di una nuova sottoscrizione, una nuova tranche dei Tremonti Bond, di cui Monte dei Paschi aveva già usufruito per 1,9 miliardi negli anni scorsi. Adesso si parla di una tranche intorno a 1 miliardo, chiaramente un'ipotesi che agli analisti non piace troppo, soprattutto perché chi ha fatto i conti dice ulteriori interessi per complessivi 250 milioni tra precedente tranche di Tremonti Bond e la nuova ipotetica tranche. Vedremo se domani questo sarà confermato al piano industriale. Sì, per quello che riguarda appunto nel Monte dei Paschi. Abbiamo poi qualche notizia in più invece su alcuni titoli, A2A, Telecom, Lottomatica e poi Impregilo, su cui invece c'è una lotta vera e propria, più normale in questo senso, cioè conteso gruppo tra i Gavio e i Salini. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Fontana, dicevamo, al di là del flusso negativo complessivo qualcosa c'è sui singoli titoli. Partiamo da A2A, molto male oggi, meno 7%. Male, A2A paga come altri titoli Telecom, di cui parleremo tra poco, la forte esposizione debitoria, quindi questo certamente non fa prediligere questo titolo, ma c'è da dire che nel fine settimana sono uscite anche delle indicazioni che hanno un po' preoccupato il mercato per quanto riguarda l'andamento di Edi Power, cioè l'eredità che A2A tiene e le utility italiane che tengono dalla cessione francese di Edison. Le centrali a ciclo combinato di Edi Power non sembrano in piena forma, stanno lavorando a ritmo basso e questo ha portato un po' una preoccupazione da parte degli analisti che stanno un po' pensando di rivedere gli obiettivi su Edi Power. Per questo il titolo è stato fortemente penalizzato, ha perso il 7%. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, oltre alla questione debitoria, ancora rimangono quelle incertezze per quanto riguarda i progetti con la Cassa Depositi e Prestiti sulla banda larga, e dall'altro canto ci sono anche incertezze sulla reale possibilità da parte di Telecom di riuscire a vendere Telecom Italia Media, cioè il suo braccio appunto di media che comprende anche la 7, NTV e le infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. Sono sono uscite alcune indicazioni, ma non si vede ancora un soggetto che possa andare veramente a fare un'offerta importante per Telecom Italia Media, e Telecom punta su questa vendita per ridurre un po' il suo debito. Oggi il titolo ha perso il 3,8%. Ancora Telecom penalizzata da un forte calo anche oggi, diciamo molti industriali non si sono salvati, giustamente citate Unicem, ma su Telecom c'è un'incertezza che riguarda l'operazione più importante, cioè la vendita di Telecom Italia Mediaterra, e assieme a Telecom anche l'Automatica, che pure essa oggi ha visto una giornata di passione. Sì, per quanto riguarda Telecom, come detto, sì, su Telecom Italia Media c'è un po' di incertezza, sono usciti alcuni nomi, si parla di Discovery Channel, qualche altro interesse, ma ancora non si intravede questo potenziale acquirente che possa far vendere alla società Telecom Italia Media il suo braccio media, tant'è vero che oggi lo stesso titolo di Telecom Italia Media ha perso l'1%. Per quanto riguarda invece l'Automatica, sono arrivate le indicazioni sulla raccolta dei giochi di aprile e maggio, segnali a luce ed ombre, soprattutto le ombre guardano un po' il gratta e vinci, il mercato, gli analisti guardano un po' con timore all'andamento del gratta e vinci, nei primi 5 mesi dell'anno è stato un po' sotto le attese, non si sa se non si intravede un recupero per la fine dell'anno, almeno per il momento, e per questo il mercato è un po' penalizzato. Va detto che però l'Automatica, come altri titoli anche del lusso, Toz, Autogrill eccetera, ha un po' recuperato poi nella seconda parte del pomeriggio, grazie all'indebolimento dell'euro a favore del dollaro, e questo ha portato un pochettino ha dato la possibilità di recuperare un po' le perdite e limitare i danni per questi titoli. Ancora Impregilo, qui abbiamo un capitolo a parte, c'è una battaglia in corso, ne parleremo nel corso di Focus Economia questa settimana, con i due contendenti, gruppo Salini da una parte, gruppo Gavio dall'altra. L'oggetto di contendere è il gruppo Impregilo, quindi costruzioni, gruppo fondamentale nelle costruzioni in questo paese. Sta avvicinando all'assemblea un po' decisiva, l'assemblea decisiva, non un po' decisiva, che si avrà nella prima parte di luglio, in cui i due contendenti scopriranno un po' le carte per la conquista di Impregilo. L'unica cosa che il mercato però sembra non vedere e che effettivamente non sembra farsi intravedere all'orizzonte è la prospettiva di un'OPA su cui il mercato scommetteva per risolvere questa questione. Il titolo oggi ha perso ancora il 3,6%, negli ultimi giorni ancora scontri tra i due contendenti, in particolare Salini che sottolinea in particolare come la vendita del 20% dell'autostrada brasiliana e Corodovias sia una mossa che non faccia il bene della società, che non fa il bene della società, e per questo mette appunto in dubbio la gestione attuale di Impregilo, e quindi auspica quindi un cambiamento di marcia, un cambiamento di gestione. Sì, il timore è che appunto questo sia un modo per esercitare una pressione poi in vista dell'assemblea, detta proprio esatto, come da comunicato del gruppo Salini. Migliori e peggiori in assoluto invece First Capital più 12,80, Ceramiche Ricchetti più 7,40, Unione Alberghi Italiani più 5,50, Stefanel più 4,90, Ciccolella più 4,80. Fronte opposto invece, Tiscali meno 7,60, AXA meno 7,60, la Polare di Milano l'abbiamo detta, anche Unicredit, Nokia ha perso il 9,60%, Società Generale il 10%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso noi torniamo invece sull'Italia, prima poi di riaprire una pagina di carattere europeo, o meglio sulle banche. Le banche, mamma mia, sono tornate a fare quello che facevano prima, le banche d'affari, e per di più oggi scopriamo dal Financial Times che gli amministratori delle banche in Europa hanno guadagnato il 12% in più nel 2011 rispetto al 2010. Ma è possibile andare avanti così? Prima di arrivare alle banche, occupiamoci di lavoro, le dichiarazioni del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi da un lato e quelle del ministro al lavoro Elsa Fornero. 349-238-6666 per i vostri sms. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, questa mattina a margine e poi anche nell'intervento all'Assemblea Annuale di Federchimica ha detto: non è la riforma del lavoro che ci aspettavamo, Dobbiamo approvarla entro il 28 giugno, ce lo chiede l'Europa. È una riforma che non migliora la flessibilità in uscita e peggiora quella in entrata. I problemi che abbiamo davanti a noi sul tema del lavoro sono veramente grandi. Tutti sappiamo che, al di là delle definizioni mediatiche, la riforma del lavoro non è esattamente quello che noi ci aspettavamo, anzi riteniamo che non ha diminuito la flessibilità in entrata senza aumentare realmente la flessibilità in uscita, quindi è una situazione sulla quale dobbiamo ancora lavorare, dovremmo mettercelo tutto, però io ritengo che ancora una volta Federchimica, credo che nei prossimi mesi dovremo dimostrare ancora una volta col rinnovo del contratto di lavoro nazionale, perché viene a scadenza l'ultimo contratto che avevo firmato da presidente, il primo triennale, credo che ci dovremmo impegnare veramente tanto per andare nella direzione giusta e soprattutto dovremmo trovare il modo giusto per affrontare i temi della produttività e della capacità di creare occupazione in un momento che rimane comunque di grande crisi, di profonda crisi. Così il presidente Confindustria Giorgio Squinzi. Poco fa su questo è tornata anche il ministro Fornero, che ha detto non abbiamo mai avuto delle preclusioni, non abbiamo mai pensato di irrigidire la flessibilità in entrata. Non abbiamo mai visto né interpretato l'articolo 18 in chiave ideologica. Non appartiene alla cultura di questo ministro e non appartiene, credo, alla cultura di questo governo affrontare i temi in maniera ideologica. Però che il tema fosse scottante non c'è dubbio, lo era nei fatti. Quindi questo è stato fatto per avvicinare la legislazione del nostro paese a quella di altri paesi e per, voglio dire, togliere la scusa a quanti hanno sventolato la bandiera dell'articolo 18 per dire in Italia non si investe, perché oggi l'articolo 18 modificato non consente più così facilmente che questa scusa sia utilizzata. E questo per quello che riguarda la riforma del mercato del lavoro. Il presidente di Confindustria Squinzi oggi però si è occupato anche della settimana. Noi abbiamo aperto il programma dicendo attenzione, sarà una settimana cruciale per l'Europa e ricordando appunto che cosa ci si attende per il vertice dal vertice del 28-29 giugno, se possiamo far ascoltare Squinzi sull'Europa. Questa è una settimana particolarissima, una settimana chiave, perché col vertice europeo del 28 di giugno credo che si dovrà un po' decidere qual è il futuro dell'Europa. Voi tutti sapete che io sono un europeista convinto, un europeista totale. Credo che oggi la competizione non si faccia più nel mercato globale tra paesi, ma si faccia tra grandi aree economiche. In Europa siamo un'area di 500 milioni di persone, un grande mercato interno, il mercato in cui c'è il più alto livello di conoscenza, ci sono i consumi più avanzati, un'area estremamente competitiva. Noi stiamo perdendo terreno nel quadro della competizione globale, ma dobbiamo ritrovare la nostra competitività, la dobbiamo ritrovare come paese, come Italia, ma la dobbiamo soprattutto ritrovare come Europa. Io credo che bisogna andare nella direzione degli Stati Uniti d'Europa, vuol dire rinunciare magari non in tempi rapidissimi e comunque in modo progressivo alla sovranità dei diversi paesi, alle sovranità nazionali, però è assolutamente fondamentale andare nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Sentiremo poi altre dichiarazioni del presidente di Confindustria dopo il GR. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dobbiamo leggermente cambiare la nostra scaletta perché l'agenzia battuta poco fa viene, sembra essere confermata, cioè il neo ministro delle finanze greco si dimetterà, ancora ricoverato dopo un malore che lo ha colpito venerdì scorso. Vorrei capire allora subito, vista la delicatezza del momento e la giornata di borsa da dimenticare, meno 4% Milano nel finale, con banche in calo tra l'8,5% e il 6%, dicevo, vorrei subito capire con il collega Darold, Vittorio Darold, se e come questo possa complicare la posizione greca, oppure in realtà si possa parlare, seppur per motivi di per motivi fisici, di un rimpasto e null'altro. Vittorio, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ecco, dimissione del ministro di finanza greco appena neo ministro, cioè appena nominato, saranno gestite, da quello che tu capisci, Vittorio, come un normale, così, non so se si possa chiamare rimpasto di governo greco, o la situazione è più complicata? No, esattamente, la situazione è più complicata. Vassilis Rapanos è il presidente della maggiore banca greca, la banca nazionale greca, la prima del paese, ed è stato il maggior consigliere del primo ministro Simitis, che era il ministro socialista del PASOK, che cercò di ammodernare il paese proprio all'ingresso del paese nell'euro, quindi nel 2001. Quindi lui è l'uomo chiave delle riforme e dell'Europa. Il fatto che abbia chiesto all'inizio un governo tecnico, governo sostanzialmente diciamo ricco di capacità tecniche alla Luca Papademos, per intenderci, sì. Questo è il vero problema. Il fatto che lui abbia questo malore, che è molto sospetto, perché è stato fatto proprio nel momento in cui doveva in qualche modo andare a Bruxelles, all'Eurogruppo, al primo Eurogruppo di preparazione del vertice, dove lui doveva in qualche modo chiedere la dilazione di 2 anni e il rinvio dei licenziamenti dei dipendenti pubblici, che sono in esubero per circa 150.000 unità. Probabilmente quindi dietro c'è uno scontro molto importante tra una politica di rigore, o comunque di avvicinamento alle richieste europee, e una politica invece diciamo così più tradizionale, che viene rappresentata da Samaras, dal premier conservatore, che invece teme una rivolta di piazza nel momento in cui lui in qualche modo non mantenga le promesse fatte in campagna elettorale, appunto, di rivedere il piano di austerità. Ma la Germania su questo ormai è assolutamente indisponibile, e quindi il piano va attuato, altrimenti la Troica non viene ad Atene, come ha già detto, e non pagherà, non verserà la tranche. Quindi è una situazione veramente complicata. Cioè, per riassumere, tu hai il forte sospetto che dietro il malore che già aveva bloccato il neo ministro delle finanze greco Vassilis Rapanos dall'andare, appunto, lo scorso venerdì, e che tra l'altro in una situazione in cui la Troica non si è recata ad Atene. La Troica è il Fondo Monetario, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, che sono quelli che devono verificare che la Grecia stia facendo i compiti a casa per poi staccare la tranche di aiuti europei. Tu temi, se ho ben capito, che dietro al malore si nasconde uno scontro tra Samaras, che è più, diciamo, per una linea morbida per evitare tensioni sociali, e invece Rapanos, che sarebbe per una linea un po' più riformista, di adesione quasi totale alle richieste dell'Europa. Esattamente, perché Rapanos è un tecnico, è quello che ha portato il paese appunto nel 2001 all'interno della zona euro, è quello che ha cercato di modernizzare il paese attraverso l'aggancio all'Unione Europea e poi all'Eurozona. Questa era la scommessa del governo Simitis, che era un governo appunto del PASOK, del socialista. Lo stesso, ecco, intanto in questo momento le agenzie hanno battuto la conferma, era nell'aria. Comunque Cipro ha chiesto il salvataggio internazionale. Il governo di Cipro ha ufficialmente informato le autorità europee della decisione di chiedere aiuto finanziario facendo ricorso al fondo Salva Stati europeo. E questo è il quinto. E questo, siamo al quinto paese, no? Cioè Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna per la parte, Cipro, diciamo, bancario, e anche anche Cipro, però, ricordiamo, è un aiuto diciamo limitato al settore bancario, perché era molto posto sui cosiddetti bond greci, che sì, naturalmente nel momento in cui si è fatto la ristrutturazione del certo, anche loro ne hanno subito una perdita rilevante. Allora, grazie a Vittorio da Roldan, è importante perché appunto, come purtroppo temevamo, dietro potrebbe non esserci solo un malore, in bocca al lupo comunque al neo ministro delle finanze greco, ma potrebbe esserci un malore diplomatico che nasconde uno scontro fortissimo tra il primo ministro e il ministro delle finanze. Alcuni di voi ci chiedono la ballata dell'euro, beh, mi sembra che oggi l'euro abbia ballato, l'area euro abbia ballato parecchio, allora la ballata dell'euro, eh. Vabbè, con la quinta di Beethoven chiude anche la nostra ballata dell'euro. Invece ringrazio per averci raggiunto in studio il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Perché in una giornata in cui le borse di nuovo hanno preso una scoppola, soprattutto Milano, Madrid e Atene, ma anche Francoforte e Parigi, qui il tema potrebbe essere il lupo perde il pelo ma non il vizio, che quasi quasi io rimando anche Gordon Gekko sulla verità, che è un po' che non lo facciamo sentire. Perché che cosa è successo? Mentre in maniera molto difficile, affannosa, i leader europei cercano di trovare una formula che dia qualche garanzia in più alla speculazione, o meglio contro la speculazione sulle banche europee, mentre le banche dell'area euro, spagnole, italiane nel caso specifico, vengono massacrate. Unicredit oggi ha perso l'8,40, la Pop Milano l'8,40, Intesa ha perso il 6,5, perché sono piene di obbligazioni, di titoli di Stato dei singoli paesi in pancia. Scopriamo che le banche, anche europee, non le italiane così tanto. C'era un bel articolo di Antonello Olivieri lo scorso 20 giugno su questo, si sono messe a reinvestire in derivati. I derivati sono quegli strumenti rischiosissimi che amplificano le perdite oltre che amplificare i guadagni. Adesso la dico con una così, semplificazione, ma insomma investi uno ma scommetti su 10, e quindi scommettendo su 10 euro pur investendone uno, se tu quello su cui scommetti fa più 10% guadagni 1 euro e quindi il 100% di quello che tu hai investito, ma se quello che su cui tu stai scommettendo, cioè 10 euro, fa meno 10%, perdi 1 euro, ossia perdi il 100% di quello che avevi investito. Detto ciò, si sono rimesse a fare le stesse cose. Praticamente scopriamo dalla BRI, che la Banca dei Regolamenti Internazionali, nel suo rapporto annuale, che le grandi banche sono tornate a speculare e si sono riempite di enormi posizioni in derivati. Antonio Olivieri scriveva appunto che in Europa ormai i 5.854 miliardi in derivati che le banche europee hanno in pancia valgono quasi metà del PIL europeo. Precisamente siamo al 52% del PIL europeo. Anche in America sono tornate a comprare derivati, anche se il dato complessivo è un po' più basso rispetto a quello europeo, al 32% del PIL americano. Dopo il traffico ti chiedo che cosa stia succedendo, perché non voglio credere alla favola dello scorpione e della rana, perché qui sembra veramente lo scorpione che si muove così, perché purtroppo è la natura, è l'istinto. Se questo è l'istinto, stiamo freschi. 349-238-6666 per i vostri sms. Negli ultimi due anni hanno venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del mare. Io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente. Nessuno sa cosa fare dopo. Eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa. come la storia dei tulipani, ricordi? Questo era Gordon Gekko di Wall Street, Il denaro non dorme mai, che è il sequel del famoso film Wall Street dell'87. Io spero che sia solo fiction, perché da quello che vediamo è esattamente come dice Michael Douglas nel film. Cioè, alla fine hanno fatto ricomprare agli stati i titoli tossici e poi si sono rimessi a fare la stessa cosa, perché altro non sanno fare. Cioè, torni a speculare sui derivati. Moria Longo, è possibile che questo sia accaduto senza, diciamo, o col beneplacito o con l'assoluta ignoranza delle autorità di vigilanza? Perché i numeri che avete pubblicato su Sole 24 Ore sono spaventosi. Cioè, l'aumento dei derivati in pancia alle banche europee, ripeto, le banche italiane ne hanno pochissimi, ma la britannica Lloyds ne ha il 6,8%, Royal Bank of Scotland il 35%, Barclays il 34%, Deutsche Bank sfiora il 40% del suo attivo sui derivati, alla faccia che sono tedeschi. E nessuno ha niente da dire. Nel nostro piccolo su Sole 24 Ore abbiamo detto più volte questa cosa. Il problema è che questo dimostra che non solo l'autorità di vigilanza, ma soprattutto il mondo politico, che è quello che poi alla fine deve fare le regole, è sempre stato incapace di fare le regole giuste, ma sempre stato molto bravo a fare regole inefficaci, ma molto, diciamo, di appeal mediatico. Allora, per esempio, si parla della Tobin Tax, della tassa sulle transazioni finanziarie, che non esiste studio che dimostri che sia efficace. Di quello si parla perché la gente lo capisce, con questo si vincono... Perché becchi voti, dai. Perché Sarkozy, ex presidente francese, ci ha giocato parte della sua rielezione mancata, poi alla fine non ce l'ha fatta, però comunque era uno dei suoi cavalli di battaglia. Mentre invece non si sono fatte le cose che bisognava fare, per esempio, appunto, regolamentare i derivati. Questo non vuol dire bandirli, i derivati hanno una funzione importante, certo, di copertura, cioè di protezione dei rischi. Ma quando diventano... Nascono come polizza assicurativa, diciamo, però poi vengono usati come investimento primario. Perché la polizza assicurativa vuol dire che tu hai un bene da assicurare e ti copri su quel bene, ma quando le polizze diventano 10 volte più grandi dei beni da assicurare, allora c'è qualcosa che non funziona. Il problema è che su questo non si è mai fatto nulla, nessun governo, né in Europa né tantomeno soprattutto nei paesi anglosassoni, soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno mai voluto fare nulla, perché il potere delle banche è troppo forte, andare a incidere su questo è impossibile e alla fine si capisce chi è che ha in mano il potere, se il potere finanziario o il potere politico è più forte. C'è un bel libro proprio in questi giorni sul potere della City britannica, su cosa la City, quante esenzioni la City londinese abbia rispetto anche a Londra stessa. Pensate che è autogestita la City, dove vivono pochissimi, 10.000 persone, ma vi lavorano 300.000 persone, dove passano metà dei derivati di tutto il mondo e buona parte di altre operazioni, diciamo, sui collaterali. E dove la gestione è, ripeto, totalmente autosufficiente, con esenzioni fiscali incredibili per i capitali stranieri, e addirittura il sindaco della City è l'unico gentile, cioè l'unico non eletto, che può sedere alla Camera dei Deputati di fronte al premier britannico, per cui insomma un potere che forse andrebbe regolamentato. Alcuni di voi non si ricordano la storia dei tulipani, niente, la bolla che scoppiò nel 2006 in Olanda, in cui il prezzo dei tulipani crebbe a livelli enormi, fino a un certo momento un bulbo di tulipano pagava un'intera spedizione di 4 navi, per darvi il raffronto. Poi a un certo momento, come tutte le bolle, scoppiò, e chi ha speso l'equivalente di miliardi di adesso, di milioni di adesso per i tulipani, restò con un bulbo di tulipano in mano. Scrive uno ascoltatore: non so se sia la storia dei tulipani o quella dei crisantemi. Ecco, vabbè, giusto per una botta d'allegria, però attenzione, la bolla dei tulipani ricorda molto di più la bolla di internet. La crisi attuale purtroppo è una crisi più sistemica e strutturale, non è una bolla su un unico settore. Moria Longo, cerchiamo di far capire a tutti però quali sono i rischi. Poi dice, le banche si sono riempite dei derivati, uno potrebbe fare un ragionamento cinico, magari in questo momento è meglio avere un derivato che avere un titolo di Stato spagnolo o portoghese o italiano. Guarda, il rischio lo fa, l'hai detto tu prima, questo effetto leva, no? Si investe poco ma si scommette su tanto. Cioè, tu con 1.000 euro puoi scommettere per un sottostante di 100.000 euro. È chiaro che così lo spiego di nuovo perché ci chiedono. È chiaro che se io con 1.000 euro metto una fish per giocare però su un investimento di 100.000 euro, alla fine, quando devo andare a riscuotere o a pagare, non ho fatto più 10% sui miei 1000 euro iniziali. Il più 10 o il meno 10 si calcola sul sottostante, cioè sui 100.000 euro. È chiaro che in questo modo basta che io perda il 10% sull'investimento e con 1000 euro che ho scommesso devo ridargliene 10.000, o meglio altri 9.000. Voi capite l'effetto esponenziale sulle perdite oltre che sui guadagni. Moria, scusa. Difatti i dati di Mediobanca che citavi prima di settimana scorsa hanno calcolato che basterebbe un 10% di perdite sui derivati su cui hanno investito le prime 20 banche europee, questo 10% di perdite sui derivati si mangerebbe più della metà del patrimonio di vigilanza delle stesse banche, quindi che andrebbero tutte ricapitalizzate in maniera massiccia. Questo fa capire come basta una piccola perdita per creare danni immensi. Quello che dicevo prima, non si sono mai fatte delle regole. Per esempio, è inconcepibile che le regole di Basilea, che adesso sono state riformate in Basilea 3, su cui tutte le banche si stanno adeguando, vanno a incidere molto sull'attività delle banche, sulle attività che le banche fanno per prestare soldi all'economia reale. Cioè, se una banca presta soldi, eroga un mutuo, presta soldi a un'impresa, deve avere da parte del capitale, molto capitale, per farlo. Questa è la cosa incredibile. Per avere derivati, questa assolutamente no. Cioè, se tu devi prestare molto meno 100.000 euro a un imprenditore che ha un piano di sviluppo, Basilea 3, questa genialata dei paesi del centro Europa, prevede che tu debba mettere da parte un bel mucchietto di soldi, perché dici, siccome li presta un imprenditore non si sa, magari questo fallisce e vabbè, e quindi diventa difficilissimo erogare credito alle piccole, soprattutto imprese che hanno più difficoltà anche con i bilanci e quant'altro. Però se gli stessi 100.000 euro te li butti in speculazione pura sui derivati, rischiando di perderne un milione, perché è chiaro che moltiplichi per 10, l'effetto leva, questo vuol dire, 10 è anche poco rispetto a certe leve che abbiamo visto, lì Basilea 3 non interviene, lì non hai bisogno di accantonare, molto più blanda, devi accantonare molto di meno. E questo è perché appunto... Cioè, se investi sull'economia reale devi accantonare tanto, se speculi sulla finanza non devi accantonare quasi nulla. A volte ci si chiede appunto chi scriva le regole, è lì che dicevo, il potere finanziario ha una capacità evidentemente di persuasione nel mondo politico che riesce a fare in modo che le regole siano a favore di determinati comportamenti, a sfavore invece di comportamenti tra virgolette più sane. Per cui abbiamo il paradosso per cui le banche italiane sono penalizzate in borsa, crollano in borsa perché hanno tanti titoli di Stato e perché prestano tanti soldi all'economia reale rispetto per esempio alle banche tedesche. Le banche tedesche invece sono piene di derivati ma anche di titoli tossici, vecchi obbligazioni salsiccia con i mutui dentro, però quello non è un problema perché le regole contabili di oggi non lo considerano tale. Sono leggermente più a favore della Germania. Dunque c'è chi scrive: lei non dovrebbe parlare di queste cose, sono troppo complesse e non ne ha la preparazione. Vabbè, allora ne parli lei, noi cerchiamo comunque di spiegarle. Faccio notare che di nuovo poco fa ha parlato il miliardario George Soros, uno dei più grandi investitori del mondo, che ha detto: l'euro potrebbe dissolversi se i leader europei non riusciranno a domare la crisi a Bruxelles nei prossimi giorni, quindi è un problema di giorni. Nel frattempo vedo che c'è chi nel nostro paese si diletta sulle elezioni anticipate a ottobre, forse non ha capito che a settembre non sappiamo neanche come arriveremo, ma va bene anche così. Ringraziando Moria Longo, il mitico George Soros sul perché la domanda di fondo è biblica, perché lo fanno? Perché lo fanno? L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.